Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Esistono persone la cui esistenza è costellata di avvenimenti incredibili, tanto da farla apparire più come la trama di un film che non una vita vissuta quotidianamente. Oggi Destini Incrociati vuole raccontarvi una storia che vede per protagonisti due personaggi che hanno una vita così, unica, particolare, fuori dagli schemi, che vivono avvenimenti apparentemente negativi, perfino drammatici, ma che si rivelano essere poi nel lungo termine estremamente positivi. È una vicenda contemporanea dei giorni nostri, eppure in qualche modo parte agli inizi del Novecento, quando un ragazzino nato nella periferia sud di Londra si appassiona tantissimo alle favole. Si chiama William Henry Pratt e tutti lo chiamano Bill. Adoravo le favole e tutti quei racconti che venivano scritti apposta per noi ragazzi. Oh, fin da piccolissimo erano il mio passatempo preferito e le conoscevo talmente bene che appena ebbi l'età partecipai persino ad un quiz televisivo, portando come materia proprio le favole. E vinsi un sacco di sterline. La vita è strana, come dicevamo prima. Questo giovane così mite dall'animo delicato, si potrebbe dire, è notissimo al grande pubblico per avere terrorizzato generazioni di spettatori appassionati del genere cinematografico horror. William Henry Pratt è infatti il nome del grandissimo e indimenticabile Boris Karloff, interprete di film che hanno fatto la storia del cinema del terrore negli anni tra il 1930 e il 1970, Frankenstein, La maschera di Fu Manchu, La mummia, I tre volti della paura. Proprio in quest'ultimo film, I tre volti della paura, tre episodi realizzati nel 62 dal grandissimo regista Mario Bava, maestro del cinema horror italiano, Boris Karloff interpreta il ruolo di un vampiro, precorrendo i tempi che vedono oggi le saghe stile Twilight, amatissime soprattutto dai più giovani. Ma questo film ha un altro importante primato. Infatti il suo titolo in inglese è Black Sabbath e ha ispirato l'omonima heavy metal band britannica, considerato il più grande gruppo del suo genere musicale di tutti i tempi, da molti citato come i Beatles dell'heavy metal. Per raccontare la storia che ha risvolti intriganti e in alcuni casi anche raccapriccianti, quanto è più di un film con Boris Karloff, dobbiamo spostarci in Gran Bretagna fino ad Aston, nei pressi di Birmingham, nell'anno simbolo per eccellenza della rivoluzione culturale, il 1968. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Corre l'anno 1968 e il mondo è sconvolto dal vento della protesta giovanile e dai cambiamenti urlati nei cortei che promettono una società nuova e più libera. La musica si fa portavoce di questo movimento globale dalle mille sfaccettature, che vede nei Beatles, nei Rolling Stones, in Bob Dylan, solo alcuni dei suoi esponenti più famosi. La Gran Bretagna, in particolare, rappresenta una fucina in continua evoluzione di fenomeni musicali incredibili, che riscrivono giorno dopo giorno la storia della musica e del paese. Birmingham, insieme a Liverpool e Manchester, forma una triade di cittadine inglesi molto attive sotto il profilo culturale e musicale. Oltre ad essere la città di origine della famiglia di J.R.R. Tolkien, l'autore del Signore degli Anelli, a Birmingham nasce Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin. Ed è anche il luogo di origine dei Duran Duran, che negli anni Ottanta è considerato uno dei gruppi bandiera del notissimo movimento New Romantic, grazie anche alla figura carismatica del suo cantante Simon Le Bon. E dunque nel 1968, anno così determinante nell'evoluzione della società moderna, nella vitalissima cittadina di Birmingham, poco a sud di Liverpool, divenuta famosa per essere la patria dei Beatles, che si forma il gruppo che sarà considerato il capostipite di tutte le band heavy metal e che vive tuttora una stagione di grande successo, i Black Sabbath. La band, i suoi incredibili successi discografici, lo stile che essa crea, l'immagine stessa dei suoi componenti, tutto rispecchia la forte e stravagante personalità dei suoi due fondatori, il cui incontro o scontro risale a una decina di anni prima, addirittura sui banchi di scuola. È qui alla Prince Albert Road Junior School che incontriamo il primo protagonista di Destini Incrociati di oggi. Il suo nome è Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. John Michael Osbourne nasce ad Eston, un sobborgo di Birmingham, nel 1948. I suoi sono molto poveri e faticano a tirare su i sei figli. Per giunta John ha parecchi problemi, è discinetico, quindi si muove male, sbatte sempre dappertutto, non riesce a fare le cose che fanno gli altri. È anche dislessico e balbuziente. Sono molte le parole che non riesce a pronunciare e le altre le dice a più riprese. Nonostante questo, John frequenta le elementari del quartiere. I soldi per mandarlo a una scuola speciale proprio non ci sono. E così il piccolo e disadattato John si ritrova in mezzo a compagni che non perdono occasione per sfotterlo in tutti i modi possibili. Per lui è un ricordo doloroso che rivivrà in diverse interviste anni dopo. Mi muovevo a scatti, andavo addosso ai mobili e ai miei compagni senza volerlo e senza poterci far niente. E non riuscivo a parlare bene. Non sapevo pronunciare nemmeno il mio cognome. Quando mi chiedevano come mi chiamavo iniziavo a balbettare Oz, Oz, Oz. È così che mi hanno affibbiato il nomignolo di Ozzy. E io me lo sono tenuto perché è carino, mi piace. John Michael diventa Ozzy per tutti. In famiglia e a scuola. Ma se per i suoi è un diminutivo simpatico e divertente, molto meno lo è per i suoi compagni di scuola, per i quali rappresenta una fonte di continuo scherno. Ozzy sopporta i soprusi fisici e morali dei suoi compagni perché, nonostante tutto, andare a scuola gli piace. Ci sono le maestre che sono gentili, con certe bambine ha un buon rapporto. E a dispetto del suo comportamento che potrebbe far pensare a qualche carenza cerebrale, è in realtà molto intelligente e ricettivo. Le cose cambiano però quando Ozzy va alle superiori, alla Birchfield Road Secondary Modern School, nel quartiere di Perry Bar, la zona nord di Birmingham. Qui i ragazzi sono più grandi e anche gli scherzi si fanno più pesanti. Alcuni suoi compagni sembrano proprio non accettare la sua diversità, il suo essere così goffo, il suo non sapersi esprimere. Non vanno al di là delle apparenze e non fanno che sfotterlo, rendendogli la vita insopportabile. Ce n'è uno in particolare, che si accanisce contro di lui quotidianamente. Il suo nome è Anthony Frank Yomi. Anthony Frank Yomi. Lo chiamano tutti Tony ed è uno dei bulli della scuola. I suoi sono italiani emigrati molti anni prima e lui è nato lì, a Birmingham. Hanno la stessa età lui e Ozzy e sono in classe insieme. Niente di peggio per il povero Osbourne che tutti i giorni deve fare i conti con Tony. Tutto li divide. A differenza di Ozzy, Tony è già un bel ragazzino, si veste alla moda, piace alle ragazze, fa sfoggio di vestiti e pettinature all'ultimo grido. Insomma, è uno che non passa inosservato e spadroneggia nella classe. Anche la musica che ascoltano è molto diversa. Ozzy stravede per i Beatles. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please love me do. Mentre ascolta Love Me Do, il primo 45 giri dei Beatles che esce nel 1962, Ozzy si sente particolarmente felice, come forse non gli era mai capitato ancora. Ha 14 anni e quella canzone lo esalta. La ascolta e la ascolta senza mai stancarsi ed è mentre la riascolta per la centesima, la millesima volta che decide, anche lui vuole diventare un cantante. Se lo fanno i Beatles, perché non dovrebbe riuscirci lui? Tony invece ha altri gusti, vuole suonare la batteria, ma i suoi non glielo permettono perché fa troppo rumore. Così il ragazzo ripiega sulla chitarra e si appassiona incredibilmente a questo strumento perché sente suonare Hank Martin, il favoloso chitarrista degli Shadows, un gruppo musicale molto in voga in Inghilterra in quegli anni. Tony sta ascoltando rapito Apache, il bellissimo pezzo dove la chitarra di Hank Martin, una favolosa Fender Stratocaster, sembra galoppare insieme ai meravigliosi cavalli Appaloosa degli indiani d'America. Tony sta pensando che non avrebbe mai immaginato si potesse suonare così, e anche lui vuole provarci, anzi ha deciso. Diventerà un chitarrista. C'è un problema però, lui è mancino, non sa suonare le chitarre degli altri, gli serve una chitarra accordata per mancini, una tutta sua. E così fa impazzire i genitori finché non gliene regalano una. E quello è il suo strumento, è proprio quella la sua passione, lo capisce appena inizia a provare i primi accordi. In una recentissima intervista ricorda proprio quelle sue prime sensazioni. Il suono che usciva da quelle corde era magico. Proprio quello che volevo ottenere, quel sound, quel ritmo. Non lo sapevo ancora che sarebbe stata tutta la mia vita, ma ero felice. Uno che canta tutte le canzoni dei Beatles, l'altro che sta sempre attaccato alla sua chitarra. Nessuno è più lontano di quanto non siano Ozzy Osbourne e Tony Iommi tra di loro, il modo di essere, il loro mondo, le passioni che coltivano. Anche se entrambi amano alla follia la musica, si tratta comunque di generi molto diversi. E così, una volta terminata la scuola, quando non sono più obbligati a vedersi tutti i giorni, i due non si incontrano più. Ozzy si è finalmente liberato del suo persecutore, quello che lo sfotte sempre più di tutti, quello con il quale fa cazzotti ogni due per tre. Finalmente non dovrà più sentire il nome di Anthony Frank Iommi. Come passare dall'inferno al paradiso. Compagni di classe fino alle scuole dell'obbligo, Ozzy Osbourne e Tony Iommi hanno 15 anni, quando finalmente non si vedono più. Le loro vite prendono due direzioni ben distinte. Seguiamo quello che succede a Ozzy. Suo padre lo ostacola in tutti i modi con quella storia della musica. Lui vuole che faccia il commerciante perché non debba lavorare come fa lui in fabbrica. Ma Ozzy continua a cantare di nascosto. Nel frattempo trova lavoro come macellaio, poi muratore, infine idraulico. Lo sente che non sono quelli i mestieri che fanno per lui. Lui vuole cantare. Ma siccome nessuno lo paga per cantare e le sue condizioni economiche sono davvero disastrose, cattive compagnie lo trascinano su una brutta strada, quella del furto. Ozzy è fondamentalmente un bravo ragazzo, non vorrebbe, ma tant'è, non vede alternative. Un giorno un amico gli parla di un furtarello facilissimo, un televisore in casa di gente che quella sera di certo non sarà in casa. Non dimentichiamoci che Ozzy è discinetico. Riesce a introdursi nell'appartamento, ma mentre trasporta la TV da 24 pollici, sbatte contro un mobile e il televisore gli casca addosso travolgendolo. Lo salvano i poliziotti, chiamati dai vicini. Stavo lì, sotto quella TV, schiacciato dal suo peso. Cavoli, quando vedi entrare gli sbirri pensai, non avrei mai creduto di essere contento di vedervi, ragazzi. Ozzy viene arrestato e rinchiuso nella Winston Green Prison di Birmingham. Mentre si trova in carcere, riflette molto sulla sua vita. Così non va affatto bene. Le cose non girano per il verso che voleva e soprattutto il furto non è la soluzione. Lui vuole cantare, lui è Ozzy Osbourne. La sua presa di coscienza è un fatto che non può e non deve mai dimenticare. Mentre sta riflettendo su questo, decide di lasciare un segno indelebile della sua personalità. Qualcosa che gli rimanga sempre sotto gli occhi e gli ricordi ogni giorno chi è e che cosa deve riuscire a fare. Prende un ago e un pezzo di grafite e si tatua il suo nomignolo, Ozzy, sulle falangi inferiori della mano sinistra. Un richiamo perentorio a non perdere mai più la sua strada. Molti anni dopo, in un'intervista rilasciata nel programma televisivo The Night Flight, ricorderà questo momento fondamentale della sua vita e il significato di questo tatuaggio, che cambia con gli anni. Non mi permette mai di dimenticarmi chi sono, Ozzy. Ozzy è qualche volta una persona molto infelice, perché da un lato sono conosciuto e faccio cose che alla gente piacciono, ma dall'altro non posso fare quello che fanno tutti. È come se ci fosse un Ozzy Osbourne e un John Osbourne. E credetemi, essere Ozzy 24 ore al giorno è davvero pesante. Uscito di galera, Ozzy ha per la prima volta nella sua vita le idee veramente chiare. Non importa cosa pensa suo padre, non importa cosa pensano tutti gli altri, lui sarà un cantante. Incomincia a fare audizioni con i vari gruppi che si stanno creando a Birmingham. Fa qualche serata con i Music Machine e poi con gli Approach. Si trova anche un nome d'arte, Ozzy Zik. E poi va da suo padre. È molto teso mentre si trova davanti a lui. Sa che il padre non è d'accordo che lui faccia il cantante. Sa che pensa che sia un ambiente bacato, quello della musica. Sa anche che preferirebbe che lui mettesse su un negozio di qualcosa. Ma il tatuaggio sulle nocche gli ricorda chi è e che cosa vuole diventare, gli dà coraggio. È così che chiede a suo padre un prestito per comprarsi un amplificatore. Incredibile ma vero, suo padre gli mette in mano i soldi. Ozzy è al settimo cielo. Mentre sta andando al negozio di strumenti musicali per comprarsi quell'amplificatore che sogna da tempo, sente che finalmente qualcosa sta cambiando nella sua vita. Decide lì, al momento, di mettere un annuncio nella bacheca del negozio. Ozzy Zig cerca concerti. Possiede un suo amplificatore. Ozzy è proprio contento. A quel pezzo di carta, a quella semplice e concisa frase, sta affidando tutto il suo futuro. Lasciamolo per un attimo lì, felice e fiducioso di fronte alla bacheca di quel negozio di strumenti musicali a Birmingham, e andiamo a vedere cosa ha combinato nel frattempo il suo acerrimo nemico di un tempo, Tony Iommi. Da quando lo abbiamo lasciato, Tony ha continuato imperterrito a suonare la sua chitarra da mancino. È il suo strumento, è la sua vita. Questo lo sente ogni volta che la prende in mano, il che accade spesso, ma purtroppo non gli dà da mangiare. Ecco perché inizia a lavorare in un'officina dove si lavorano i metalli. Certo, non è proprio quello che sogna, fare l'operaio, ma deve pur campare. Intanto aspetta l'occasione giusta, che si presenta un giorno in cui legge l'annuncio di una band non meglio specificata che farà una selezione di chitarristi. Quale migliore occasione? Tony si precipita. È molto teso mentre suona davanti a quella strana commissione di esaminatori. Non sa spiegarsi chi possano essere, ma tant'è. Lui si concentra sulla sua chitarra. Dopo qualche giorno lo chiamano. Inaspettatamente hanno scelto proprio lui. Tony è felicissimo e anche un po' sorpreso. Ma quando scopre chi sono quegli strani tizi che lo stanno per ingaggiare proprio come chitarrista, beh, non crede davvero ai propri occhi. Si tratta niente meno che di Ian Anderson e dei Jethro Tull. Destini incrociati. Destini incrociati vi sta raccontando oggi la genesi di una delle band più famose e particolari del panorama musicale mondiale, i Black Sabbath. Leader indiscussi di un genere molto amato, l'heavy metal, i Black Sabbath rispecchiano in tutto e per tutto le complesse e affascinanti personalità dei fondatori. Ozzy Osbourne e Tony Iommi. I due si conoscono a scuola, dove peraltro non fanno che prendersi a pugni e litigare, motivo per cui una volta terminata la scuola dell'obbligo, a 15 anni, non si vedono più. Entrambi grandissimi appassionati di musica, seguono però due strade diverse. Ozzy adora i Beatles e decide di diventare un cantante. Tony invece suona la chitarra in maniera meravigliosa, tanto che lo scelgono per sostituire il chitarrista di una band storica, i Jethro Tull. Tony, che per vivere fa l'operaio in un'officina che lavora i metalli, si licenzia. Ma proprio all'ultimo turno di lavoro gli capita qualcosa che cambia per sempre la sua vita. È lui stesso a raccontarlo in una intervista. La mano destra mi rimase sotto una morsa, tagliandomi di netto le falangi superiori del medio e dell'anulare. Un incidente assolutamente devastante, non potevo più suonare. Tony è lì a terra, nell'officina dove ha lavorato per tanto tempo e che oggi, proprio oggi, doveva lasciare per sempre, per intraprendere la sua nuova vita come chitarrista dei Jethro Tull. La sua mano destra sanguina, le due falangi centrali gli sono state recise, la sua vita è finita. Tutto quello che segue lo vive come in un sogno, quasi non stia accadendo davvero a lui. I suoi colleghi che gli prestano le prime cure, l'arrivo dei paramedici che gli recuperano le sue falangi recise in un contenitore con il ghiaccio, nella speranza di poter effettuare l'operazione per riattaccarle, l'ambulanza che corre all'ospedale, la successiva delusione perché l'intervento non riesce e la depressione che ne segue. Tony è un uomo distrutto. Mentre sta lasciando l'ospedale dopo oltre un mese di ricovero, sente che la sua vita è finita, ha chiuso per sempre con la chitarra. Disperato, Tony si chiude in se stesso. Aveva la fortuna e la felicità così, servite su un piatto d'argento, ma niente. La sua disattenzione, forse la voglia di vivere quel sogno prima del tempo, lo hanno tradito. A nulla valgono le esortazioni dei suoi familiari, degli amici, lui è solo con la sua disperazione. Poi, un pomeriggio, va a trovarlo un suo compagno di lavoro, un operaio dell'officina. Gli porta un disco, gli dice «Ascoltalo, è un chitarrista come te». Ma Tony non ne ha voglia. «Ascoltalo», continua il suo collega. «Anche lui ha perso le dita in un incidente, eppure continua a suonare». Tony non sa cosa dire e guarda impietrito il suo collega che mette su il disco. È Django Reinhardt, Un chitarrista di origine rom che da giovane, a causa dell'incendio della roulotte della sua famiglia, subisce terribili ustioni, tanto da perdere l'uso di una gamba e di due dita della mano sinistra. Nonostante questo, Django sviluppa un'incredibile tecnica chitarristica rivoluzionaria che ancora oggi lascia di stucco e suscita ammirazione per il virtuosismo, la vitalità, l'originalità. Django riesce a diventare un chitarrista impareggiabile, senza rivali, e ha una carriera spettacolare negli anni 30 e 40, terminata solo a causa della sua prematura scomparsa. Il suo disco cambia la vita di Tony Iommi, come ricorda lui stesso. Mi dette una scossa incredibile, pensai, lui ce l'ha fatta, cavoli, e se ce l'aveva fatta lui posso farcela anch'io. Così iniziai a suonare con due dita quelle che mi erano rimaste. Dovevo essere così bravo da fare con due dita quello che gli altri facevano con quattro. Tony ritrova la voglia di suonare. Si esercita senza posa, vuole recuperare il tempo perduto. Certo, ha perso il contratto con i Jethro Tull, ma se lo avevano preso allora vuol dire che è in gamba. E poi, per fortuna, non ha perso l'uso delle dita. Sono solo più corte delle altre. E lui ha un'idea brillante, utilizza due tappi del detersivo liquido Fairy. Sono proprio della misura giusta e gli permettono di suonare con tutte le dita. È una soluzione molto particolare, non c'è dubbio. Ma Tony non ha certo i soldi per farsi realizzare delle protesi. I tappi del Fairy fanno bene il loro servizio, anche se hanno l'inconveniente di scivolare. Ecco perché Tony accorda la chitarra a mezzo tono più in basso, per avere le corde un po' meno tese e più morbide, per poterle suonare più facilmente. Sembra incredibile, ma funziona. Ora, come suona lui, non suona nessun altro. Il suo stile è unico e inconfondibile, la sua bravura eccelsa si fonde con la sua particolarità unica. Siamo agli inizi del 1964. In tutta l'Inghilterra le band musicali si moltiplicano come funghi. Tony Iommi è oramai in grado di suonare di nuovo in maniera abilissima, nonostante il gravissimo incidente occorsogli sul posto di lavoro, un'officina meccanica. Una pressa gli ha reciso di netto le falangi superiori delle due dita centrali della mano destra. Nonostante questo, con la forza di volontà, Tony torna nuovamente a suonare. Sono diverse le formazioni con le quali si cimenta: The Rockin' Chevrolet, The Rest e i Mythology insieme al suo amico batterista Bill Ward. È proprio con lui che Tony entra in un giorno nel negozio di strumenti musicali dove Ozzy Osbourne ha messo il suo annuncio. È lui stesso a ricordare quel momento fondamentale della sua vita. Ero con Bill, cercavamo già da un po' un cantante. Beh, entriamo in quel negozio e leggo un bigliettino nella bacheca degli annunci. Ozzy Zig cerca concerti, possiede un suo amplificatore. Io mi dissi, conosco un Ozzy, ma non può essere quello. C'era un Ozzy a scuola, ma non può essere lo stesso Ozzy. Quando andammo all'indirizzo segnato, riconobbi la casa di Ozzy Osbourne. Allora dissi a Bill, per carità, dimentichiamoci di questo tizio. L'incontro fra Ozzy Osbourne e Tony Iommi è forse il momento più emozionante delle loro vite. Si trovano uno di fronte all'altro e fanno fatica a riconoscersi. In fondo sono passati solo un paio d'anni, ma quello che hanno vissuto li ha cambiati profondamente. E poi ora hanno un interesse in comune, fare dei concerti. Sia Ozzy che Tony vogliono mettere su una band. Uno è un bravissimo cantante, l'altro un chitarrista eccelso, nonostante l'incidente. E così decidono di provarci. Messi da parte i brutti ricordi e le innumerevoli scazzottate, Ozzy e Tony mettono in piedi una band con Bill Ward e un amico di Ozzy, il bassista Geezer Butler. Insieme funzionano, ma devono trovare il nome giusto. Ne cambiano parecchi. Alla fine provano con Earth, Terra, ma non va bene, come ricorda lo stesso Ozzy. Il primo nome che usammo era Earth, ma non andava mica bene. Quando lo pronunciavamo sembrava quasi un brutto verso, tipo bleh. Così pensai, dobbiamo assolutamente cambiarlo, altrimenti non avremo nemmeno un ingaggio. E poi Earth è anche il nome di un'altra band. Devono proprio cambiarlo. Si sa, non è facile scegliere un nome, anche perché da quello dipendono poi tante cose. Le scelte strategiche, l'immagine stessa della band, lo stile musicale. Ozzy e Tony stanno pensando a quale possa essere la scelta giusta per loro. Cosa piace alla gente? Beh, le persone adorano andare a vedere i film dell'orrore. Per qualche bizzarra ragione, anche se ci sono scene strane, aggressive, violente, ferite, sangue, spavento, la gente adora questo genere di spettacolo. Così pensammo, perché non creare uno spettacolo musicale che ricordasse quelle atmosfere? Il loro bassista Geezer Butler è un grandissimo appassionato del genere gli capita di vedere i tre volti della paura di Mario Bava, che in inglese ha un titolo diversissimo dalla versione originale italiana. Si chiama Black Sabbath. Rimane talmente folgorato dai tre episodi del grande regista italiano e dalla magistrale interpretazione del grande Boris Karloff che scrive un pezzo e lo intitola proprio Black Sabbath. Quando Ozzy e Tony lo sentono, hanno l'intuizione giusta. Ecco il nome per loro. Questa scelta si rivela determinante per la band, come ricorda ancora Ozzy. Cambiato il nome cambiò tutto per noi. La nostra attitudine, i movimenti, la direzione, tutto cambiò. Con il nuovo nome, la band cambia radicalmente stile. Dal blues passa a un sound nuovo, prima con elementi di folk europeo, poi con toni sempre più forti e cupi, fino a una soluzione inedita che porta alla creazione di un nuovo genere musicale, del quale i Black Sabbath saranno da allora in poi i massimi esponenti, insieme ai mitici Led Zeppelin. Stiamo parlando dell'heavy metal. La canzone Black Sabbath, che dà il nome al primo album della band di Ozzy e Tony, ha un immediato successo di pubblico e scatena la critica, che si divide, come spesso accade in questi casi. Alcuni li incensano, altri li stroncano, dipingendoli come dei pazzi adoratori di Satana. Tutto questo perché la canzone racconta la storia di un giovane che vede il diavolo durante l'Apocalisse. Anche se anni dopo Ozzy e Tony dichiareranno di essere del tutto estranei a qualsiasi forma di satanismo o affini, di certo tutta quella pubblicità intorno al loro disco non gli dispiace, perché rappresenta un vero trampolino di lancio. Sta di fatto che questo disco, una miscela di psichedelia oscura e heavy metal, avrà un ruolo determinante nella genesi di numerose band venute dopo Ozzy e Tony. I ritmi lenti e inquietanti e l'atmosfera da film horror sono elementi completamente nuovi nel panorama musicale, e migliaia di band metal dichiareranno di essersi ispirate ai Black Sabbath. Destini incrociati. Sono le note iniziali di Black Sabbath, il pezzo d'esordio del 1970 dell'omonima band inglese, nata dalla volontà e dalla passione di Ozzy Osbourne e Tony Iommi. Nonostante le grandi difficoltà personali dei due musicisti, Ozzy dislessico e discinetico, incarcerato perfino per furto, e Tony mutilato di ben due dita da una pressa durante il suo lavoro di operaio, la band ha un incredibile seguito di pubblico. Un cantante balbuziente e un chitarrista con due dita in meno non sembrerebbero le giuste premesse per il successo. Eppure i due dimostrano una tale determinazione da riuscire a superare perfino difficoltà che appaiono impossibili. Con l'album Black Sabbath, la via del successo si apre di fronte alla band. I due amici e i loro compagni creano un genere nuovo, heavy metal, che riscuote un gradimento immediato. L'album successivo che Ozzy e Tony scrivono insieme a Bill Ward e Geezer Butler e che esce solo pochi mesi dopo è Paranoid. I temi di queste canzoni sono differenti da quelli del primo album, più maturi. Siamo negli anni 70 e Ozzy e Tony sono particolarmente toccati dalla tragedia della guerra in Vietnam, come racconta in un'intervista lo stesso Tony. A quel tempo le canzoni parlavano tutte d'amore fondamentalmente, ma noi invece parlavamo di quello che accadeva nel mondo, cose terribili come la guerra in Vietnam. Gli altri sembravano non interessarsene, ma noi pensavamo che erano cose delle quali invece bisognava assolutamente parlare. Ozzy e Tony stanno componendo una canzone che parla proprio della guerra in Vietnam. Decidono di chiamarla War Pigs, i porci della guerra, e pensano di intitolare così l'intero album. Ma poi devono cambiare idea, come ricorda Ozzy. L'album si doveva originariamente chiamare War Pigs, ma l'impatto negativo della guerra del Vietnam fu così forte che decidemmo di trovare un altro nome. Nel frattempo il singolo Paranoid aveva avuto un tale successo, era schizzato al primo posto in classifica. Così chiamammo l'album Paranoid. Yeah. Paranoid è il disco di maggior successo dei Black Sabbath. Numero uno nella classifica inglese con 7 dischi di platino e 1 d'oro, è considerato ancora oggi una delle produzioni più rilevanti per la nascita dell'heavy metal e conquista milioni di fan in tutto il mondo. Ozzy Osbourne e Tony Iommi non conoscono tregua, passano da una produzione all'altra, da un successo all'altro. Può essere difficile vivere una realtà così particolare come quella che si trovano a sostenere tutti i componenti della band. Come succede a tutti coloro che hanno un successo così incredibile e repentino, i Black Sabbath vivono sempre sopra le righe, un ruolo duro da sopportare, come dirà Ozzy. Era dura, davvero dura. Incominciai ad avere parecchi problemi, problemi mentali, anche di droga per un po', con l'alcol, problemi di relazione con gli altri, con le donne, ma non ho mai pensato di mettere qualcosa prima del mio lavoro, del mio amore per quello che facevo. Per me è sempre venuto prima fare qualcosa che potesse piacere al mio pubblico. È il 1979 quando Ozzy abbandona la formazione. È una scelta sofferta, dura, difficile per tutti, anche per Tony. Ma ancora una volta i due affrontano la questione come hanno sempre fatto, con decisione e con la consapevolezza di essere un punto fermo l'uno per l'altro. In effetti è così. Ozzy Osbourne prosegue la sua carriera da solista, consolidando la sua fama e diventando sempre più una star a tutto tondo. Di lui si raccontano tantissimi aneddoti, alcuni anche molto macabri. Forse il più noto è quando qualcuno butta sul palco dove Ozzy sta cantando un pipistrello morto e lui, credendolo di gomma, gli stacca la testa con un morso. Tutti episodi che creano molto rumore intorno al grande cantante, sempre più amato da folle scatenate di fan, tanto da diventare con la sua famiglia addirittura protagonista di un reality di enorme successo. Gli Osbourne. Weather in Afghanistan, 2000 degrees and cloudy. Tony Iommi continua la sua avventura con i Black Sabbath, tuttora considerati la più grande longeva band di heavy metal al mondo, ma ripetutamente i due amici si ritrovano nel corso degli anni. Nel 1997, durante l'Ozzfest, un festival dell'heavy metal organizzato da Ozzy e da sua moglie Sharon, Iommi suona ancora con il suo vecchio compagno di scuola. E l'anno successivo, nel 1998, la formazione originale realizza addirittura un album, intitolato Reunion, con tutti i pezzi incisi dal vivo. Lo scorso agosto, Tony Iommi ha annunciato che la band, nella sua formazione originale, si sta ricostruendo e sta provando per realizzare un nuovo tour e un album. L'11 novembre, durante una conferenza stampa al Whisky a Go-Go di West Hollywood, Ozzy ha confermato che canterà nel nuovo disco dei Black Sabbath per la prima volta dopo 33 anni, in vista del nuovo tour che dovrebbe portarli anche in Italia il 24 giugno 2012. Ancora una volta insieme, per testimoniare il loro grande amore per il pubblico e la loro determinazione a non mollare mai.